Sì, pure troppo bello la povera tua pizzerola. Sì, Felix, agliunzio. Sì, pure troppo bello la povera tua pizzerola. Sì, Felix, agliunzio. Amore sospettente, a ridere mi dio. Paridere mi dio. A voi so poco tempo, a voi so poco tempo. Fitnulus indefabilis, membris lacertis labis. Fitnulus indefabilis, membris lacertis labis. Si, pura papu ello la, mojave to i cello la. Si, Felix, andiam, siam.